E Questo come qui. piace a me, questa è una finta diretta che faccio con due figure fondamentali dell'ITC Teatro per inizio stagione 2024-2025, Micaela Casalboni e Andrea Paolucci. Iniziamo da Micaela, intanto, come hai passato questo stacco, anche se adesso sotto la pioggia è estivo? Molto bene, Mi fa guarda, ho piacere. proprio staccato ed erano un po' di anni che non succedeva, quindi siamo carichissimi. E come si comincia? Allora, si comincia con una stagione che, come sempre, mette al centro, oltre agli artisti, anzi prima degli artisti, il pubblico. Quest'idea della condivisione è una roba che ci piace molto. Per cui, accanto a molti spettacoli della stagione, ci sono iniziative collaterali. Un aperitivo prima in cui parlare di teatro, del dietro le quinte, spettatori che attivamente partecipano, anche persone che non sono spettatori. E gli incontri con la compagnia a seguire, poi ci sono su temi suscitati da spettacoli di maestri, altri incontri che coinvolgono oltre a dei, chiamiamoli VIP, maestri del teatro e non solo, anche ragazzi e ragazze delle scuole, dell'università, e quindi ecco tante cose accanto. Tra invece gli spettacoli, come sempre, tentiamo di mettere, chiamiamoli così, grandi nomi o comunque persone che noi consideriamo appunto maestri, compagnie emergenti, compagnie che non sempre passano dalle nostre parti. Quest'anno avremo niente poco di meno che il grande Danio Manfredini, il grande César Brie, avremo Marta Cuscunà e avremo anche uno spettacolo di Antonio Latella. I primi tre saranno anche presenti fisicamente e dialogheranno col pubblico. Antonio invece non può essere con noi, però le sue attrici faranno poi un incontro dopo la fine dello spettacolo con Katie Latorre. Sono spettacoli che ragionano anche su temi, come sempre, questo un po' appartiene all'ITC, al Teatro dell'Argine da sempre, ragionano su temi anche importanti della contemporaneità, la libertà d'espressione, la violenza di genere, la memoria della resistenza, le persone messe al margine e così via. E poi si apre al contemporaneo e quindi abbiamo, cito un po' di nomi così, Meno 20 con Entertainment, avremo Puteca Celidonia con Felicissima Jurnata che hanno da poco vinto, avremo le ragazze di Qui e Ora Residenza Teatrale con una regia di Silvia Gribaudi, quindi una cosa al confine tra teatro e danza, avremo Teatro dei Gordi, per, vogliamo un po' mescolare i linguaggi e quindi qualcosa che c'entra col teatro ma anche col teatro di figura lì accanto, avremo I Sacchi di Sabbia e chi più ne ha più ne metta, quindi questo è un po' come riassuntone generale. Andrea, per quanto riguarda una parola d'ordine, dopo aver ascoltato questo elenco e soprattutto questi contenuti di ITC Teatro, se tu dovessi riassumere con filo conduttore e anche parole che conducono a teatro per questa stagione. Allora, intanto c'è una grandissima attenzione, come diceva Micaela, al pubblico, alle persone che ci attraversano e quindi da loro vorrei ripartire. Sono belle, sono diverse per età, provenienza, c'è una magnifica stagione di teatro ragazzi che tiene dentro, o meglio per le nuove generazioni, come si dice oggi, che tiene dentro famiglie, nonni, bambini, abbiamo progetti speciali che coinvolgono persone anche che non fanno teatro. Quindi se c'è una parola che le riassume tutte, relazioni, relazioni belle, relazioni intense, relazioni di emozioni che ci sembra di riuscire a fare con persone che apparentemente al teatro non hanno mai guardato in questo modo. Quindi cose belle che uno non si aspetta di trovare, venendo all'ETC le trova. Abbiamo anche produzioni che arrivano da ITC, Compagnia Sì. Teatro dell'Argine. Ebbene sì, quest'anno ne debuttano ben due nuove, una è Miserella, della quale parlo, sono in scena e sono anche regista, mi è venuto sto vizio anche a me adesso, chissà com'è successo, che ha debuttato quest'estate molto bene a Festival Kilowatt e arriva a casa sua all'ITC. C'è una nuova produzione che si intitola Pseudologia Fantastica di e con la regia di Nicola Bonazzi e con in scena oltre a Lea Ciriani anche Fabio Mangolini, non attore della compagnia ma grande amico. Persona che non è semplicemente per noi un attore con cui relazionarci, ma è veramente una persona con cui realizzare progetti vari. E poi torna The Show Must Go On, che aveva avuto un Sì. primo studio, a sua volta un esperimento di teatro di figura. Poi ci sono anche delle nuove produzioni nell'ambito della stagione junior, diciamo così, per le nuove generazioni, e in particolare questo Testa di Legno, che a sua volta è una riflessione fatta con le materie, tra cui indovinate quale? Il legno, visto che abbiamo un attore regista che è anche un creatore di oggetti in legno, che è Giovanni Dispenza, e questo nuovo lavoro parlerà di genitorialità e dietro al cast Giovanni Di Spenza, Giulia Franzaresi e Caterina Bartoletti a diverso titolo coinvolte nella regia, nella drammaturgia e sulla scena. Completiamo il tridente, è arrivato Nicola Bonazzi, adesso mi allungo per portare questo assist a un realizzatore veramente preciso con quelle che sono le realtà di approfondimento di Radio Città Fujiko in scena. Intanto ti do il buongiorno e benvenuto Nicola. Grazie mille, buongiorno a tutti e spero di fare gol a questo punto. Sì, mi sa che realizzi anche questa volta. A proposito di regia, Michela ha anticipato un po' i lavori da te portati, ci puoi dire qualcosa di più? Sì, diciamo che riesco a dirvi quello che so allo stato attuale della realizzazione dello spettacolo, perché in realtà è uno spettacolo abbastanza complesso che mi ha portato a confrontarmi con questo tema di cui non sapevo nulla, però a un certo punto mi ci sono imbattuto in maniera del tutto casuale, e cioè questa patologia, cioè riconosciuta come patologia dalla psichiatria, che è la pseudologia fantastica, che è fondamentalmente la mitomania, cioè la necessità per qualche soggetto di inventarsi una biografia inesistente e alternativa alla propria. E quindi è una cosa molto interessante, anche perché la portano in scena degli attori, che solitamente portano in scena delle biografie che non sono le proprie, insomma, sostanzialmente. E in particolare la cosa più interessante di tutte è che molte di queste biografie false, fasulle, completamente inventate e che non hanno un immediato utile, non sono delle truffe, riguardano persone che immaginano di essere state deportate, quindi inventano una biografia relativa, o hanno inventato, sono persone ovviamente nel frattempo molto molto anziane, che immaginano di aver avuto, per altri problemi o disagi loro biografici, di essere stati deportati, ma non è vero, non esiste, e loro però ci credono, insomma, in tutto questo. Quindi è davvero un tema straordinario che intercetta l'altro grande tema, anche molto attuale, di realtà e finzione, che è attuale poi sempre anche per il lavoro degli attori naturalmente. Certo, approfondiremo il concetto molto interessante poi nello svolgimento del programma con Nicola. Si inizia ufficialmente? Si inizia ufficialmente? Allora, stasera, intanto, giovedì 19 settembre, ci proviamo, se il maltempo ce lo consente, a fare una presentazione con il nostro pubblico. Si inizia con Miserella, col nostro lavoro mio e delle mie compagne sul tema dell'invecchiamento del corpo, in particolare il corpo femminile, ma anche con tanta ironia, e che debutta il 16 ottobre e che sarà in scena fino al 27 con vari orari in giornate speciali, ma poi sul nostro sito teatrodellagine.org trovate tutte le informazioni sia su questo che su tutte le altre cose delle quali abbiamo parlato. Grazie maestri e buona stagione. Grazie a te e a voi tutti che ascoltate come sempre.